Sono le 9 e la settima diretta dell'Artra Radio Roma incomincia così. Il calcio. Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Che campioni, Olli e Benji vinceranno il campionato. Sia per Olli, sia per Benji, scoppia di voglia. Solito copione, lancio di sassi e di bottiglie e lancio di bombe carta davanti alla curva nord e alla curva sud. Curva nord e alla curva sud. Per voi, Mr. Campo and Mr. Gasparino. Per voi, Mr. Campo and Mr. Gasparino. Per voi, intorno alle 13.30 un razzo di particolare potenza è partito dalla curva sud ed ha raggiunto, attraversando tutto lo stadio, la curva nord. Lì ha colpito al volto un tifoso, Vincenzo Paparelli, di 33 anni. Roma, stazione Termini, scene di guerriglia davanti a tifosi e telecamere. Gli ultra del Napoli sono appena arrivati con il treno per assistere alla partita all'Olimpico. Salva la pelle, salvala, stiamo trasmettendo l'emozione cosmica. Per la prima volta la cocaina entra nel mondo del calcio. 29 maggio 1985, un giorno di vergogna per molti e di morte per 39 spettatori, 32 italiani che mai videro la partita che pure si giocò tra Juventus e Liguri. Il numero del popolo italiano, la corte di assise di Arezzo, visti gli articoli 521, 533, 535 del codice procedura penale, dichiara Spaccarotella Luigi, colpevole del delitto di quell'articolo 589 del codice penale, aggravata a norma dell'articolo 61.3 del codice penale, così modificata nell'ordinaria rubrica, e che l'attenuante generica ritenuta la prevalenza della suddetta aggravante rispetto all'attenuante lo condanna a pena di anni 6 di reclusione o a pagamento. Ho chiuso il libro facendo un elogio paradossale, naturalmente, di Luciano Moggi, perché Luciano Moggi, senza volerlo, ha dimostrato di aver capito perfettamente qual è la funzione essenziale di una democrazia di una sala. Mondiale Italia 90 sono stati una grande abbuffata. 11 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi. Manfredonia Giordano, Cacciatori e Wilson della Lazio, Albertosi e Morini del Milan. Non si può accettare per nessuna cosa, magari andava al Parlamento, una petizione al Presidente della Repubblica. Salva la pelle, salvala, stiamo trasmettendo in mezzo l'esplosione cosmica. Salvala, salvala, salva la pelle, salvala, stiamo trasmettendo in mezzo Marta Radio. 10 agosto del 1980, un giorno importantissimo, perché a Roma, verso tarda mattinata, arriva un DC-10 all'Italia proveniente da Rio de Janeiro. In quell'aereo viaggia Paolo Roberto Falcao. Falcao viene accolto da una folla immensa di tifosi giallorossi. Roma-Inter 1, Fiorentina-Roma 2, Roma-Lazio si sono presentati. Sacchi-Milan 2, l'unica partita che ha vinto il Milan, Roma-Brasile 1, Roma-Resto del Mondo 1, Lazio-Milan. Buonasera, buonasera a tutti. Qui da questi microfoni, oggi 11 ottobre 2010, a tenervi compagnia per un'ora e mezza, saranno con voi Mr. Campo. Buonasera a tutti. E Mr. Gasperino, che è il sottoscritto. Che cosa vogliamo fare questa sera? Niente di nuovo. Vorremmo portare quattro chiacchiere con amici. Esattamente, vorremmo portare e fare un esperimento questa sera. Un esperimento che si basa sul voler scambiare quelle che sono le nostre serate solite, dove parliamo di problemi sociali e problemi che riguardano la nostra società, magari accompagnati con del buon vino e delle chiacchiere. Chiacchiere da bar questa sera su un'altra Radio Roma. Come avete potuto ascoltare dalla sigla, noi vorremmo affrontare un argomento, il calcio. Ma non nel calcio quello che pensate normalmente, quello che fa parte della Serie A, della Serie B, della Serie C. Noi vorremmo parlare del gioco del calcio e lo vogliamo affrontare in due modi, in due aspetti. Vorremmo parlare del calcio brutto e del calcio sano. Quello che abbiamo pensato di realizzare in questa trasmissione è stato accolto con diverso stupore all'interno della radio. C'è chi pensa di boicottare questa trasmissione, sono arrivate minacce di tutti i tipi, ma comunque noi andremo avanti e vi parleremo appunto di quello che riguarda il gioco del calcio. O Campo, invece di stare muto di fronte al computer per vedere se qualcuno ci chatta, a proposito, ricordo i nostri contatti su Facebook, su Mille Mikes o anche su Skype, per dire le vostre impressioni su quello che stiamo per dire e quello che abbiamo pensato di dirvi. Quindi Campo, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Buonasera a tutti, vi prego le mani, il discorso mi eccita veramente tanto. Affronteremo diversi discorsi questa sera. Tutti il calcio. Sarà veramente entusiasmante. Per il momento abbiamo pensato di cominciare subito con un bel testo per fare capire da dove vogliamo partire. La canzone è La mafia del calcio. Ecco a voi, Esa, Aka e il presidente, dall'album Il messaggio. La mafia del calcio. La mafia del calcio. La mafia del calcio. Via, Oh yeah. Due palleggi via, Funky Maradona in the house, press, here it is. In Italia si gioca a pallone da bambini, nel cortile come in Brasile si fanno due tiri, anche a ricreazione, all'intervallo della lezione, pure d'estate in vacanza in qualsiasi spiaggia, partitella al tramonto del sole. Durante l'anno c'è il fantacalcio con le squadre dei colleghi o col compagno di banco, in ogni bar sport è il dibattito, e se c'è in palio la coppa qui aumenta il battito. A New York un tassista mi ha sgridato perché sono italiano e non seguo il campionato, gioco a pallone da quando sono nato, con la mamma che chiama ora dice cena settimana, calcetto partito all'estremo. La mafia del calcio non ha limiti, le società spendevano milioni per i campioni, adesso costa meno comprarsi gli arbitri. La mafia del calcio non ha limiti, le società spendevano milioni per i campioni. Ora seguo più lo skate con la sua scena, ma il gioco del pallone con semplicità estrema intrattiene, fa scattare per quasi due ore come minimo 22 persone per passione, dove non c'è niente si ricava una porta con gli zaini, due piante, difesa attaccante, portiere, passaggi, tiri in porta e rigori, al coperto dagli spalti, dalla curva fino dagli albori, Pifo Regina, Amaranto, 1300 km orgoglio, non sto avvelenato ma rispetto il sogno di chi soffre per la squadra del cuore e lo fa con amore, non truccate le storie. La mafia del calcio non ha vinti, le società spendevano milioni per i campioni, adesso costa meno comprarsi gli arbitri. La mafia del calcio non ha limiti, le società spendevano milioni per i campioni, e per chi soffre per la squadra del cuore, non truccate le storie. La mafia del calcio non ha limiti, le società spendevano milioni per i campioni, adesso costa meno comprarsi gli arbitri. La mafia del calcio non ha limiti, le società spendevano milioni per i campioni, e per chi soffre per la squadra del cuore, non truccate le storie. Bene, eccoci qua, siamo rientrati in studio. Per parlarvi di calcio, per parlarvi del gioco del calcio. Caro Campo, io partirei da un'affermazione di Winston Churchill che diceva: gli italiani perdono le guerre come se fossero delle partite di calcio e le partite di calcio come fossero delle guerre. Esattamente, da qui vorrei partire. Il discorso, diciamo che prende subito la giusta angolazione. Beh, in Italia diciamo che il calcio oramai non è più solo uno sport, questo è chiaro, e si mischia sempre più spesso con politica e ovviamente con l'economia, anche perché sappiamo tutti che comunque l'Italia basa la sua economia sul calcio. E l'importanza che noi diamo a questo gioco, l'importanza che noi diamo a livello affettivo e comunque di appartenenza, che a volte inevitabilmente viene tradito da giocatori senza maglia, da arbitri che costano due centesimi. Aspetta caro Campo, tu mi stai parlando per caso della fine degli anni 80 con il calcio scommesse che si vendevano le partite per due soldi? Beh, potremmo partire da quel discorso fino ovviamente arrivare agli ultimi eventi di Calciopoli. Ma la differenza lì è sostanziale. Nella prima situazione, nel calcio scommesse, sicuramente c'era una situazione dove la giustizia penale ha potuto far poco, mentre la giustizia sportiva ha colpito parecchio. Nel calciopoli interviene anche la giustizia penale. Non so se finirà come una bolla di sapone, come solitamente succede in Italia. Cosa ne pensi? Ma a partire dal fatto che probabilmente il calcio scommesse degli anni 80 era organizzato soprattutto dai stessi calciatori e forse, ripeto, le società c'entravano in maniera diversa. Calciopoli, parliamo proprio del calcio truccato sotto tutti i punti d'aspetto. È solo un fatto, diciamo, partendo dal fatto che le società hanno molti interessi. Oggi troviamo SNAI, Stallabat in ogni angolo della città dove possiamo scommettere sulle partite, quindi ovviamente gli interessi cambiano e si moltiplicano a dismisura. E, il calcio scommesse degli anni 80, il famosissimo picchietto, che chi è che non ha giocato per le strade sotto casa nel bar più vicino, probabilmente era strettamente collegato ai calciatori che prendevano dei soldi scommettendo direttamente sulle partite. Calciopoli è un movimento completamente diverso, arriverei quasi a dire che è un movimento mafioso. C'è un problema fondamentale, secondo me. Normalmente in Italia siamo abituati a dimenticarci quello che accade e rinnamorarci ancora una volta per un gioco che sotto certi aspetti e sotto certe angolature rimane realmente, realmente marcio. Io credo che in qualche modo siamo noi, che siamo i fruitori del calcio, del gioco del calcio, a dover cercare di cambiare completamente atteggiamenti verso questo sport. Io a questo punto, prima di mandare il secondo brano, citerei dei versi di Pierpaolo Pasolini: il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, e penso che questo dica tutto. Adesso partiamo con il prossimo brano, un brano di Mr. Gaspo che adesso vi passo e vi annuncerà. The Gasoline Brothers con Recorder. Marta Radio Roma. Inespressi ed espressi del calcio italiano. Io non posso dimenticare una partita, era Inter Slovan di Bratislava, semifinale di Coppa UEFA. Bene, a un certo punto diedero un calcio di rigore all'Inter. Per chi si intende di calcio, ma anche per chi non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore in una semifinale di Coppa UEFA, è tutto vero, di prendersi la responsabilità di tirare un calcio di rigore. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse vai. Prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore e disse lo tiro io, con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe sbagliato. E sbagliò. Io pensai, per me questo comunque è un uomo. Ma quando 5 minuti dopo ridiedero un altro calcio di rigore all'Inter, può capire la difficoltà per un giocatore che ha appena sbagliato di tirare un calcio di rigore in una semifinale di Coppa UEFA di riassumersi la responsabilità di ritirarlo. Lui guardò tutto stadio negli occhi e tutto lo stadio invece no, puttana Eva, ma che no. Aspetta, prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe risbagliato, e risbagliò. E io pensai, questi per me sono uomini veri, un po' sfigati, ma quando 5 minuti dopo diedero un calcio d'angolo all'Inter e lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse, ma che cazzo c'ha da guardarmi questo qui? 5 minuti dopo rubò la palla al suo stesso portiere che gli disse, Marissimo, che cazzo stai facendo? È mia! Non gioco più, vado a casa! Basta! Sbagliato! E scartò tutta la squadra avversaria! Di solo davanti al portiere, scartò anche il portiere, da solo davanti alla porta, scartò anche la porta, perché lui era uno che andava oltre, scartò con un dribbling unico 12 fotografi, con un pallonetto di tacco, superò le inferiati San Siro, un tunnel unico, infilò 12.000 ultras, pallone di testa, tacco di naso di punta, scartò tutti quelli che doveva incontrare, discese scagliati di San Siro, scartò tutti i poliziotti che ricaricano il lupo, tutti quelli che strappavano i biglietti, fu fermato solo in piazzale Axum a Milano dal tram numero 15. Quando si risvegliò dopo 15 giorni di coma, la prima frase che disse fu: ma cazzo ragazzi, se non è rigore questo qui! You know this. Did you know that Kim Deal takes lots of heroin? You think your body can handle that? I think not. She's so uncool. She's so uncool. She plays the recorder. Siamo partiti dal calcio scommesse e comunque dal calciopoli e tutto questo comunque riallaccia al discorso che il tifoso oggi è quello che ci rimette di più su tutti questi livelli, soprattutto per chi crede veramente nel calcio, e a volte tutto questo si tramuta in violenza. Ma adesso ho deciso che vi mando prima un altro pezzo, rilassatevi un altro poco, un po' di musica. Lui è Eugene, dall'album Ciò che vorrei, il testo della canzone, il titolo della canzone, pardon, è Perfetto Manichino. Mai prenderò la parte di nessuno. Perfetto manichino, ma non mi inchino, no. E il peso del mio sonno non mi attenua intorno. Il desiderio del sonno. Isolata, ma l'attenzione ci devi far caso con la semplicità. Che il vuoto da colmare è un abisso fondo, e a volte lo ritrovo ancora più profondo per la mia inquietudine, per le tue novità. Confusamente ancora, ingoio rospia mai, sospesi tra i ricordi, i volti cancellati, e il desiderio del sonno non mi attenua intorno, il desiderio del sonno. La tua reazione tormenta e isolata, ma l'attenzione ci devi far caso con la semplicità. Il vuoto da colmare è un abisso fondo, e a volte lo trovo ancora più profondo per la mia inquietudine, per le tue novità. mai prenderò la parte di nessuno, perfetto manichino. Per tutti quelli che avevano paura che parlassimo solo di calcio, la dimostrazione che qui la buona musica è sempre di casa. Abbiamo voglia di raccontarvi quello che potrebbe essere la nostra serata tipica, quindi vi invitiamo qui con noi, aprite una birra, filatevi quello che vi pare e parlate con noi di quello che vogliamo noi. Vado avanti con la musica. No, parliamo di calcio. Ancora musica. No, parliamo di calcio. Dopo. Da colmare è un abisso fondo, e a volte lo ritrovo ancora più profondo. Per la mia inquietudine. Inquietudine, il prossimo brano, scaricato sempre sotto licenza di Creative Commons, Armando Cacciato per Nartra Radio Roma. www.nartraradioroma.blogspot.com. E che tattica adopererete? Adotterete anche voi la zona? No, io adotto un altro tipo di tattica, la B-zona. E che cosa sarebbe la B-zona? È forse la zona per tornare in Serie B? La B non significa B, B-zona sta per bis zona, cioè due volte zona. Come se io a lei dicessi bistro, che non significa bistro francese, ma due volte stronzo. Arrivederci. Nartra. Radio Roma. Roma. Spend it all, 'cause you. sempre insensibile in espletum, portami in record di smai, sempre insensibile in espletum, portami in record di smai, sempre insensibile in espletum, portami in record di smai, sempre. I am nothing, I should always be laughing, I cannot wish to be anything. Armando Cacciato qui su un'altra Radio Roma. L'hanno cacciato. Bene, bene, bene, bene. Ritorniamo a parlare del gioco del calcio. Eccoci. E ne vorremmo parlare in un modo abbastanza serioso. Mr. Campo diceva durante il lancio del suo pezzo che forse il calcio scommesse, calciopoli, insomma le zozzure che ci sono dietro al calcio scaturiscono in violenza negli ultras. Vorrei quindi parlare con voi del teppismo, del tespismo negli stadi. Personalmente, beh, vorrei fare un discorso un po'... partirei proprio dal punto che comunque il tifoso della domenica va allo stadio e cerca quell'ora e mezza di tranquillità, a volte per colpa degli arbitri, per colpa di episodi poco chiari, si vedono quell'ora e mezza che aspettano tutta la settimana rovinata. E a volte è proprio l'esasperazione. Sono arrivate le pizze. Mangia! A volte è proprio l'esasperazione che porta a gesti che io personalmente definisco non corretti, non. Come posso dire? Non mi viene il termine. Non consoni. Non idonei. Non idonei. In quanto uno sport. Ma che comunque essendo presente in molti eventi posso tranquillamente dire che a volte dentro si scaturisce un po' di quella rabbia che poi le persone riescono a contenere e altre probabilmente no. Io credo che fondamentalmente il discorso è un po' più ampio. La rabbia che si scaturisce all'interno degli stadi di calcio a volte rappresenta un'espressione di frustrazione che le persone hanno e che mettono in quei momenti. Però siccome si è arrivata alle pizze, io passerei un attimo il pezzo, un brano, e poi riprendiamo subito questo discorso. Quindi, caro Mister Nessuno, che ti hai preparato da passare? Il brano era strettamente attinente, ma non sono riuscito a finire il concetto. Lo riprendiamo. Comunque, Benny Blanco, Sick Rock, Bass Media, West, Drag Smone. Sono loro, la crew del Tuscolano, roba forte con un pezzo veramente forte. Police. Come passo di blocco, sì ma non mi fermi. O sta per orgoglio ma non hanno orgoglio i vermi. L come lame, I uguale infame. Zanzara succhia sangue con licenza di sparare. Indagare, arrestare, la libertà dietro manette. Nelle mie rotte roba forte ma altrettante camionette. Tracciano la scia in questa via incompatibile. La faccia in portamento e il pizzetto inconfondibile. È inutile domare l'indomabile, impossibile. Roba forte al limite del vivere. C'è chi vive in gabbia, il ricco in sabbia. Con l'euro compituto bevo e non lo si sappia. Diverso dal suono, dalla sostanza. Figlio guerriero di una scienza che premia costanza e competenza. Un uomo abbassando la testa può reprimere l'istinto, ma poi quando l'alza riemerge tutto quanto convinto. Che l'amore genera amore, che l'innocenza è un fiore. Va oltre pistole e sì signore, sì signore. Tutto qui, compresi tutti i miei limiti. Assorbiti tutti i lividi in pezza piena con i brividi. Io vivo di momenti limpidi, in giorni torbidi. Fra troppi ibridi con l'inquietudine, fra troppi ominidi in solitudine. C'è chi è martello e c'è chi incudine in questo mondo sordo. Si croc, roba forte, la diffondo a tutto tondo. Per questo corro, in questo mondo, per questo corro. Roba forte, se corri più veloce, corri sì finché c'è fiato. Corri perché il tempo è quasi finito. Splanca la tua mente, corri tra la gente, sbraga porte. Polissi in elicottero, hamsterci in roba forte. Corri più veloce, corri sì finché c'è fiato. Corri perché il tempo è quasi finito. Splanca la tua mente, corri tra la gente, sbraga porte. Polissi in elicottero, hamsterci in roba forte. Rieccoci qui, siamo rientrati, le pizze sono arrivate. Riprenderei il discorso importante che stava facendo Mr. Campo. Non vorrei che morisse lì dove era iniziato. Lui parlava del fatto che in fin dei conti gli stadi non sono nient'altro che la rappresentazione della nostra società. Ci puoi trovare la persona meno colta e la persona più colta, la persona più ricca e meno ricca e via dicendo. E quindi sono, se non mi sbaglio, stavi proprio qui e io ti ho interrotto in brutto modo e ho anche beccato un pugno. Ovviamente sì, da qui che volevo ripartire, dal fatto che comunque lo stadio rappresenta la cultura della gente ed è divisa nei vari settori e comunque si ripercuote molto e si sente. Soprattutto ecco, io frequentando lo stadio Olimpico è facile da, insomma, da capire le varie sezioni che si trovano già nella curva e poi praticamente soprattutto partono, diciamo, proprio dalle idee politiche, poi per allargarsi nei vari altri settori. Però ma voglio dire, chi porta un motorino nel terzo anello di San Siro lo scaglia di sotto, c'ha poco di politico, è una frustrazione che è innata in queste persone, non può essere espressa in questa maniera. Io partirei dal fatto che già è strano che uno stadio, dopo tutti i controlli che si trovano allo stadio, prima di entrare, riesce ad entrare fino al terzo anello dello stadio. È già questo che mi sembra in qualche modo strano. Sì, sicuramente hai ragione per quello che riguarda quell'aspetto, ma se permetti, non riesco a capire perché ci debba essere tanta violenza dietro a uno sport così bello. Voglio fare una piccola precisazione, scusa Campo, che è la seguente. Questa trasmissione, come dicevamo all'inizio, nasce su due aspetti: quello brutto che stiamo affrontando in questo momento e che in fin dei conti rappresenta il nostro modo di vivere il calcio qui in Italia specialmente, e la seconda parte dovrebbe essere la parte più allegra. Visto che sono due tempi, il primo tempo sta per terminare, io direi di stringere un pochettino, se sei d'accordo, e quindi vorrei dirti che dietro la violenza che c'è dietro allo stadio di calcio sicuramente c'è una responsabilità oggettiva da parte degli organizzatori, quale le società stesse proprietarie delle squadre di calcio, e da parte dello Stato che non fa nulla. Cioè, io mi ricordo quando ero più giovane che in Inghilterra la violenza era molto più alta. Oggi negli stadi inglesi possono entrare i bambini, possono entrare le famiglie, insomma in fin dei conti è ritornata ad essere la festa che deve essere il gioco del calcio, che comunque nasconde a 100 metri dallo stadio scontri, accoltellamenti che succedono giornalmente e che non vengono raccontati. E qui partirò quindi poi con un discorso che riguarda quello che ci viene detto e quello che non ci viene detto, perché capito molto spesso per dire di andare in stati, in trasporto, soprattutto in Italia, dove il tifoso arriva tranquillamente e viene provocato direttamente da chi in qualche modo dovrebbe controllare, dovrebbe controllarci. E quindi questo è già è un problema di fondo, probabilmente sarà un problema italiano culturale, e non è soltanto culturale. Poi alla fine però, se andiamo a vedere a fondo, comunque molte delle tragedie che sono successe negli stati in qualche modo sono state provocate, che si voglia dire no, e a volte non sono nemmeno reali. Più di una volta, ecco, sulla sigla iniziale si sente il caso Sandri, ma non solo. E questo comunque non fa altro che in qualche modo fomentare rabbia e violenza, anche perché comunque inevitabilmente il tifoso ultras che sta allo stadio, ma anche il tifoso che va in curva normalmente, l'Italia non si sente assolutamente protetto da questa gente, ma si sente continuamente sfidato. Anche perché è inevitabile, più di una volta mi è successo, ripeto, di essere insultato dalla stessa polizia, dai stessi carabinieri che erano lì per proteggere a noi. Quindi la giustizia dove sta? Non c'è proprio il concetto fondamentale per poter parlare di un calcio pulito, bello, e fatto apposta per i bambini, per tutti, insomma. Un evento spettacolare, nello stesso tempo sportivo. Io vorrei tornare negli stadi con mio figlio. Il prossimo pezzo che vado a passarvi, per poi passare nella seconda parte, quella bella, quella del gioco del calcio sano, è un pezzo molto duro. E un artista introdurrà questo pezzo e sicuramente fa parte di quello che abbiamo detto fino adesso. Vi lascio con Beppe Grillo. Abbiamo un altro indultino, l'avete visto? L'indultino del calcio. L'indultino del calcio. Ora io mi rivolgo a voi tifosi, teste di cazzo che non siete altro. Mi rivolgo a voi, presi per il culo. E ancora sarete ripresi per il culo finché capirete una cosa, che avete una grande arma in mano. È l'unica arma che si può avere. Uno, non andare più a vedere una cazzo di partita, non ci vai più. Due, non abbonarsi a quella cazzo di Sky. Tre, quando vai a fare la spesa, ti segni gli sponsor di queste merde e non compri più i loro prodotti. Prossima fermata, prossima fermata. È finito il primo tempo. Nartra Radio Roma vuole salutare Paolo Mazzullo di Radio Rock, che per noi è stato e rimane un esempio per quella che è la radio indipendente. Se Nartra Radio Roma oggi esiste, forse in parte è grazie anche a Radio Rock. Quindi noi ci sentiamo realmente vicino a tutto lo staff di Radio Rock. Riprendiamo il secondo tempo, caro Kempo, e vorrei parlare, come dicevamo all'inizio, del gioco del calcio sano, cioè quello che appassiona realmente gli italiani a questo sport. Qual è il motivo per cui oggi milioni, cioè per un secolo, diciamo la realtà, per un secolo tantissime persone, quasi tutte, non l'ammette quasi nessuno, ha seguito questo gioco? Sia come tifoso o anche come giocatore, secondo te qual è l'importanza che esiste all'interno di questo gioco? Per quale motivo noi oggi qui su Nartra Radio Roma, trasmettendo sì ottima musica Creative Commons, abbiamo deciso io e te di parlare di questo argomento? Io partirei dall'ala che scende sotto la fascia, salta un uomo e salta un altro, cross al centro e la punta, nell'istante in cui salta e impatta il pallone con la testa, è un brutto e subito dopo quell'emozione che ogni volta ti fa scordare tutto il male delle giornate, la pesantezza di tutto, è proprio quell'istante, quel momento che è inspiegabile, ogni volta è sempre diverso. Ho trovato uno scritto che forse può aiutarti, di un poeta spagnolo, lo leggo in italiano. Bombardato da sensazione, idee sfruttate o no, finte che nascondono le vere intenzioni, come può questo caos mentale terminare in una giocata armonica? Beh, diciamo che è un bel riassunto di quello che è l'emozione del gesto e del momento. Però penso che poi comunque è importante anche l'incontrarsi tutte le domeniche al solito posto e lo svago prima della partita, comunque l'incontrarsi con gli amici, parlare comunque del calcio che accomuna comunque molte persone, quel senso di appartenenza, soprattutto, beh, io lo vedo perché vivo a Roma, alla maglia e alla città nello stesso tempo, che forse è l'unico momento veramente di attaccamento alla città. Non parleremo dopo di quello che significa lo sport per il tifoso, lo affrontiamo fra un momento. L'amore per il calcio che accomuna tutti gli uomini della terra credo che sia indiscutibile. Ci sono stati registi, cantanti, calciatori che ne hanno parlato e ne continueranno a parlare ancora per molto. Fa innamorare, fa arrabbiare, in qualche modo ci rappresenta, come diceva qui il nostro caro Kempo. Ma che cosa ne pensi di passare un altro brano? Ma vogliamo un attimo, e mi è venuto in mente un brano che in qualche modo parla proprio della nostra nazione. Si chiama Italia, loro sono una vecchia conoscenza, perfetto e perfezioni, a voi. L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. E non mi dire che la mala non si trova, non mi dire che il ministro non si droga. E non mi dire che lo Stato non si sbaglia, non mi dire che la brava gente viene dall'Italia. Stipaglia un disastro, un disagio, lo sente chi come me è reso ostaggio. Oltraggio alla corte, incontrato da chi spende, spande soldi tra droghe e mignotte, menti corrotte, fama, potere e gloria, non l'uomo ma il sangue. Scrisse la storia, aspetto l'ora del giudizio, qui l'amore a strada è fittizio, ogni indizio. Collega un politico, un senatore, un ministro, cosa cazzo sta scritto? Che devo lavorare per farti guadagnare, che devo sudare per la tua casa al mare, non credo nel tuo giorno migliore. Se la mafia cementa gente, lo stadio investe sul mattone. Questa è l'Italia, criminalità organizzata. Si spartisce tutto tra la gente antologata, disperata. La gente del quartiere, le trattenute a fine mese, la testa sul tagliere. Non posso contenere l'odio che sale mentre sto paese va a puttane. E non mi dire che la mala non si trova, non mi dire che il ministro non si droga. E non mi dire che lo Stato non si sbaglia, non mi dire che la brava gente viene dall'Italia. E non mi dire che la mala non si trova, non mi dire che il ministro non si droga. E non mi dire che lo Stato non si sbaglia, non mi dire che la brava gente viene dall'Italia. Mi dici che nel mio paese non si usa droga, io di gente che non compra coca, ne conosco poca. È l'Italia, paese nostro pieno di valori, valori talmente corrotti che non esco fuori. Ti dicono cosa fare, come devi essere, promettendoti che un giorno vivrai nel benessere. Queste sono finte promesse concesse alla gente che a bocca, ma per me servono lezze più spesse. Non gliela fanno più e ne siamo consapevoli, illusioni indescrivibili, stipendi poco attendibili. Il Parlamento gira, non so di apparate, ma qua nelle strade la fame, la fama secchiate. Si vede bestemmiarsi, almeno se sfogamo PDL e PD, votiamo e tiriamo giù i santi qui. E non mi dire che la mala non si trova, non mi dire che il ministro non si droga. E non mi dire che lo Stato non si sbaglia, non mi dire che la brava gente viene dall'Italia. E non mi dire che la mala non si trova, non mi dire che il ministro non si droga. E non mi dire che lo Stato non si sbaglia, non mi dire che la brava gente viene dall'Italia. Questa città mi spinge a dare sempre il massimo, sì. Lavoravo per vivere, per il cavallo è pessimo. Degli ostico, rimetto e mastico, se il mio paese ha preso un filo, mi regalerò un elastico. Questa Italia non c'è prezza, io farei lo storico di ogni uomo sulla terra, per il cavallo è l'essenza. Vivo crisi di coscienza, io non abbocco la tua lenza, non mi muovo come lezioni di danza. C'è i pesci da mangiare, hai sbagliato male, la TV ci inganna, la radio ci bavaglia, la cagna non si bagna più. Sto parlando del mio mondo che non vedi tu. Ci dicono che è un mondo di occasioni, tutto rose e fiori, sono messaggi errati, codificati e preservati dal tuo cervello, senza percepirlo. Sono messaggi subliminali, ma tu non puoi vederlo. Mi prescrivono anticoncezionali, dai sapori ammoniacali, per renderci più sleali e più criminali. Fin quando lo Stato me la farà pagare, e lì dovrò pregare. E non mi dire che la mala non si trova, non mi dire che il ministro non si droga. E non mi dire che lo Stato non si sbaglia, non mi dire che la brava gente viene dall'Italia. Bambini nella notte ci riducono sul lastrico, a cismone di sangue, come al loro più pratico. Si fondano, ancora non conoscono il popolo in rivolta, che c'ha rimedi in frassino. Se c'è chi su questo mondo che muore il mio essere umano, mi rivolgo con bestemmie verso il mio denaro. È tutto sicuro, tutto poco chiaro, ma basta un televisore che ve fa calare l'amaro. È l'Italia calamaro che ci tiene con tentacoli, solo faccendati nella corte dei miracoli. Il clima è teso, Vanganelli sopra il viso, la gente che reclama la trasportano di peso. Se ti scappa la lancetta e si provo il mio respiro, mando a fare il culo a tutti quanti, io non resto al capochino. No, no, no, no, no, no. Parlavi di appartenenza, di sentirsi parte di un gruppo, di identificarsi all'interno di un gruppo. A proposito, voi sapete perché noi chiamiamo Mr. Campo Nessuno? Perché se lui riesce a far la radio, tutti possono farla. Perché lui è Nessuno. Ciao, sono Nessuno. È partito il cazzetto. Allora, dicevamo dell'appartenenza verso i colori della squadra, appartenenza ad un gruppo di giocatori, verso i colori che possiamo dire, più di una volta ho sentito dire, rappresentano la nostra fede calcistica. Come mai, io mi domando, no? Come mai, malgrado tutte queste brutture, il doping, il calcio scommesse, i calciopoli, la violenza, il teppismo, lo Stato che non fa nulla per risolvere queste problematiche, come mai ancora oggi sentiamo quell'amore che la domenica ci fa vibrare, vogliamo seguire la nostra squadra, se non possiamo vogliamo sapere i risultati, insomma, come mai ancora oggi c'è questo grande senso di appartenenza verso dei colori, verso quello che rappresenta la nostra, come dicevo prima, fede calcistica. Il discorso è talmente tanto ampio, probabilmente è molto difficile spiegarlo, perché è una cosa che io penso di avercela dentro da sempre. Comunque non riuscirei mai a non vedere la partita della Roma se, allo stadio l'ideale, però comunque seguirla anche in televisione. Se devo dire la verità, probabilmente l'amore comincia direttamente dall'attaccamento alla città, e poi comunque di conseguenza si riflette sulla squadra, perché oggi i veri gladiatori poi sono loro, e quindi possiamo riflettere su questo, che rappresentano i nostri colori e comunque alzano i vessilli della città, che comunque va ad affrontare altre squadre. Poi intendo che a Roma sia una cosa particolare, perché comunque la storia che ci precede, tutto quanto porta comunque a un amore particolare, ma penso che tutti abbiano un amore per la vera città, e questo comunque credo che sia uno degli aspetti. Però vorrei chiedere, per esempio, io, perché seguo molto di più il caso con Gaspo, vorrei sapere da lui, che probabilmente la vede un po' più da fuori, se riesce a concepire quest'amore o se ne rimane in qualche modo attaccato. Io sono disgustato da quella che è stata la prima parte che abbiamo affrontato, ma sono un tifoso e sono uno dei tifosi che ha esultato per il campionato del mondo. Sono uno di quei tifosi che ha esultato per una settimana di seguito dopo che la propria squadra ha vinto lo scudetto. Che silente, perché disgustato, segue questo sport e quindi ne è innamorato sicuramente. Voglio leggervi un pensiero che forse in qualche modo rappresenta quello che stiamo dicendo. Tra poco passerò un pezzo di Febbre a 90 di Nick Hornby, che dice: mi innamorai del calcio come mi sarei innamorato delle donne inesplicabilmente, senza pensare al dolore, allo sconvolgimento che avrebbe portato con sé. Questo per dire che anche gli uomini di cultura amano il calcio, anche i primi ministri seguono il calcio, anche le regine, i re, i regnanti, ma anche le persone più semplici, più povere, sono forse quelle che danno quel motore, quella spinta alle proprie squadre. Soprattutto credo il colore. Il colore che rappresenta quella che abbiamo detto poco fa, la fede per il proprio calcio. Intendevo anche il colore che comunque porta la gente andando a vedere le partite. Che comunque gli stadi vuoti fanno soltanto una brutta impressione. È quasi ci rattristano dall'evento veramente spettacolare e divertente che potrebbe essere. Allora, inizialmente la nostra sigla era tratta da diversi pezzi, da diverse situazioni, e il brano che sentivate sotto nella prima parte era degli Scompiglio, che ora vi vado a presentare con I Tempi Passano. Passano, passano. Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto. Ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce, stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione. Tutti completamente persi, senza nient'altro nella testa. E poi il fischio dell'arbitro. E tutti che impazziscono. E in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo. E il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un elemento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. E che male c'è in questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. Un'altra radio. Roma. E mi passano in fretta. sfogliami, leccami, sfasciami, uccidimi, violentami, spaccami la testa. E mi passano in fretta, sai, e per quanto mi corra non li prendi mai. E mi passano in fretta, sai, come dei pali in un viaggio la notte in un attimo. E vai, lontano, mentre i tuoi piedi sono fermi qui. Baciami, graffiami, leccami, sfasciami, uccidimi. Sempre collegati su un'altra Radio Roma, è il mondo della musica libera, è il mondo del calcio questa sera. Tra poco assisterete all'incontro Argentina-Brasile, diretto da Mr. Cocot e da Mr. Brontolo, ma alle 10:30. È il momento del quiz. Mister Campo, indossi le cuffie che sta per partire la domanda. Vediamo la sua preparazione al riguardo. Prima domanda. Qual è la partita in cui sono stati segnati più gol e quanti? Ma avrei bisogno di un aiutino. Magari un aiutino da casa? Da casa qualcuno sa qualcosa? Ma non saprei. Forse proviamo con l'aiuto dallo studio. Ehi, Cocot! Qual è la partita in cui sono state segnate più reti? Vediamo se sei preparato. Procaccolese, Real Caciotta. Lei non sa una minchia. Lo buttate fuori dallo studio per cortesia, Mister Cacot. Faccia una foto. Mister Brontolo, per favore. Lei sa chi ha siglato più gol in una partita? Ma ancora la prima domanda. Lei sa quanti, qual è la squadra che ha segnato più gol in una partita? Vi aiuto, è una nazione. E quanti? Australia, ma con la compartecipazione di Città del Vaticano. Bene, bene, bene, questa volta ci chiudono. Ok, riprendiamo in mano le redine del gioco e vi porgo la seconda domanda. Quanti gol ha segnato di più un giocatore in una partita? Ecco, ben esperto! Buonasera, in quanto alla prima domanda, l'Australia vinse 31-0 contro il Samoa americane e il maggior marcatore fu nella stessa partita, Archie Thompson, 13 gol. E in Italia, a parte la procaccolese che ha detto Cocot? So anche questa! Il Milan sconfitto l'Atalanta per 9 gol a 3. Ho vinto qualche cosa? Sì, il prossimo brano. Ma arriva? Ecco a voi. Sunday Morning. I Matrix fanno un folk sperimentale dalla Polonia. L'album è What's the Matrix e la canzone, lo ripeto di nuovo, è Sunday Morning. A voi. Sempre su un'altra Radio Roma. La radio con la panchina corta che non è deperastica. Instead of reaching for the lasers, you could be reaching for the perception. Bene, fino adesso, caro Kempo, abbiamo parlato un po' di tante cose. Abbiamo visto in quest'ultima parte che cosa rappresenta il calcio, il gioco del calcio per il tifoso, la passione che gli crea, la voglia di alzarsi la domenica e seguire la propria squadra anche in trasferta. Ma non abbiamo visto che cosa rappresenta il gioco del calcio per un giocatore. Ho trovato uno scritto, vorrei leggervelo, così, per farvi passare con noi un momento piacevole, perché lo racchiude veramente. Si intitola Terra e Sassi. L'allenamento è finito. Con il braccio piegato che regge il borsone ti fermi a guardare il campo illuminato della luce della strada. Terra e Sassi, ecco su cosa giochi. Terra e sassi che ti hanno fatto uscire il sangue, che ti hanno fatto cadere, che ti hanno dato tanta gioia. Terra e sassi che hai dentro gli scarpini, che ti hanno sporcato, che sono la tua casa. Cosa ti spinge ogni anno a iniziare una nuova stagione? C'è l'età, ancora che giochi? Ti senti dire dalla gente. A domenica a me piace dormire, ti dicono i palestrati. Non stiamo mai insieme, ti dice la tua ragazza. Meglio il carcetto, ti dicono gli amici. Pensa al lavoro, ti dicono i tuoi genitori. Ci pensi e sorridi. Cosa ne sanno loro di che cosa vuol dire il calcio per te? Che ne sanno della tensione che il sabato non ti fa dormire, delle partite che hai giocato da infortunato, di quello che provi quando sei il primo ad abbracciare chi ha segnato e subito dopo sei sommerso da tutta la squadra compresa la panchina ed ogni botta che senti è un giocatore che arriva e saltando si aggiunge al mucchio. Che ne sanno delle corse che ti sei fatto per non fare tardi agli allenamenti ed arrivare al campo con la squadra già schierata in circolo che ascolta il mister? Che ne sanno di quel gol che hai salvato sulla linea tanti anni fa, ma che senti come se lo avessi fatto ora? Che ne sanno di quanta forza ti dà la pacca sulla schiena del tuo compagno di squadra alla fine dei giri di campo che ti hanno stremato? Che ne sanno di come trattiene il fiato quando la domenica mattina il mister annuncia la formazione? Che ne sanno di quanto è dolce la carezza che, senza guardarti, chi gioca dall'inizio ti dà, uscendo dallo spogliatoio, per andare a riscaldarsi, mentre sei rimasto seduto con una maglia numero 15 tra le mani e le lacrime agli occhi? Che ne sanno di cosa si prova a stare 1-0 a 5 minuti dalla fine? Che ne sanno di come riesci a capirti con i tuoi compagni con uno sguardo che dura un secondo? Che ne sanno di cosa ti passa per la mente quando fai lo stretching prima della partita? Che ne sanno di quanta sicurezza ti dà la prima entrata scivolata sulla palla? Che ne sanno della fatica che ti prende a mezz'ora dal primo tempo o del dolore dopo un fallo? Che ne sanno dell'estomaco che ti si stringe quando segna quello che ti stai marcando? Che ne sanno delle comitate che hai preso, dei calci che hai dato e delle strette di mani sincere all'avversario? Che ne sanno di come si barcolla dopo il decimo giro di campo e ti reggi spalla a spalla contro gli altri? Nessuno si ferma, si arriva alla fine tutti insieme, stanco che nemmeno riesce a sputare, ma ce l'hai fatta. Che ne sanno delle sveglie che ha preso chi aveva tentato di colpire uno di noi? Che ne sanno dei gol che da difensore festeggiato per conto tuo, abbracciato a centrocampo insieme al libero, mentre gli altri si sfruttano per conto loro? Che ne sanno di quanta gente hai fatto volare a bordo campo e di quante stecche hai preso senza nemmeno capire da dove arrivassero? Che ne sanno delle tue scaramanzie, delle docce fredde che ti sei fatto, delle cene dopo gli allenamenti, dei campi che non riuscivi a trovare, degli arbitri che ti si ricordavano? Che ne sanno di quanto ami questo sport, di quanto sei legato a questa squadra e di quanto bene gli vuoi? Terra e sassi, un pallone, 10 persone al tuo fianco, 11 di fronte a te, un fischio, lungo, secco. La palla che per un attimo supera la linea di centrocampo e che ritorna velocemente indietro. Le maglie che si mischiano. Questa è la tua vita. Che ne sanno loro? Arbitro! Imbecille! Costante ne attacca il televisore e corda! Così arrivi dritto al satellite e riportaggi tu! Va, non ti scalma tanto, che poi devi allo sturbo, vedi che stai calmo! Lo sturbo? Quale sturbo? E più lo sturbo! Lo sturbo! Ma che c'hai? Non mi fa male! C'è un medico, un infermiere, un farmacista, qua bisogna fargli qualche cosa! Questo va! Oh, ma non c'è nessuno! Fammi la respirazione bocca a bocca! Sì! No, forse è meglio però! Papà! Papà! Che è successo? Assegnata a Roma! Dire messo! Assegnata a Roma! Chi ha segnato? Di Bartolomei! Agostino? Sì! Agostino! Bellissimo! Mettere a fumare la pipa che te famo presidente della Repubblica! E ti pare che lui manda mentre la Roma segna? E che va passata laziale! Vi piace questo progetto di un'altra Radio de Roma? Di salutarci, eh sì, questa settima esperienza per noi Mister Campo termina proprio ed esattamente da dove è incominciata, dal gioco del calcio, e sicuramente lasceremo le mani, cioè lasceremo la radio, non le mani, a mani esperte come Mister Campo e Mister Cocot, che so che hanno preparato delle cose strabilianti per voi. La prossima ora e mezza si parlerà di Argentina-Brasile. Io, per amore, vi lascio con una frase che dedico a un giocatore ancora in attività, al nostro capitano, Francesco Totti. E poi ci sono quelli che creano un nuovo spazio dove non avrebbe dovuto esserci nessuno spazio. Questi sono i profeti, i poeti del gioco. Grande mitico. Waldo Soriano, scrittore argentino. Uno scrittore amante del calcio. Bene, bene, bene, la roba che avevamo preparato questa sera per tutti voi era veramente tanta, sia la musica, nonché anche gli scritti, quindi ci troviamo quasi quasi a un minuto dalla fine. I DJ qui accanto a noi sono quasi pronti, noi siamo altrettanto pronti a lasciargli il microfono e andarci a riposare, perché fra poco arriverà il cameriere con gli amari. Allora, io vi lascio con una frase di un premio Nobel per la letteratura, è stato premio Nobel del 1925, un tale George Bernard Shaw, che diceva: il calcio è l'arte di comprimere la storia universale in 90 minuti. Vada più stressata. Caro Kempo, con quale cacchio di canzone vogliamo salutare il nostro pubblico? Caraibico. Hai deciso, insomma, eh? Sì, alla fine proprio. Cioè, non è che ci siamo messi d'accordo, ma a caso. Allora, a noi non resta che salutarvi e a dirvi chi è Gianni. Salutiamo Gianni. Gianni, ciao. Fatta la tessera. Fai la tessera del tifoso. Allora, dicevamo, salutiamo tutti quanti voi che ci avete sopportato per questa ora e mezza. Vi ricordiamo l'appuntamento l'8 novembre al Teatro Faralume di Roma, Ostia Lido, per l'evento Jazz al Teatro, curato da Natra Radio Roma. Vi ricordo che queste trasmissioni portano solo musiche Creative Commons e ringraziamo gli artisti che ci hanno supportato. Io sono pronto per lanciare il brano, caro Kempone. Io ringrazierei anche i nostri figli che hanno partecipato alla sigla iniziale, Argentina versus Brasile. Non devi dire, poi ci denunciano per sul telefono azzurro tutte queste cose qui, capito? Musica, musica a svansvera. Arrivederci a tutti, arrivederci a tutti, arrivederci a tutti. Musica a svansvera.